Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. In Europa c'è l'accordo per i fondi anticrisi, via libera al piano da 750 miliardi, giornata storica, dice Macron, Conte, l'Italia ora è più forte. Blitz contro l'Andrangheta, 75 arresti tra Italia e Svizzera. Coronavirus, quasi 15 milioni di casi nel mondo, preoccupa la risalita in Spagna. In Italia zero nuovi positivi in 9 regioni, ma in Lazio si pensa all'uso della mascherina nei luoghi della Movida, a Capri obbligo all'aria aperta nel fine settimana. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Allora, dunque, come avete sentito nel corso di questa mattinata, dopo il quarto giorno di lavori al Consiglio europeo, all'alba di questa mattina è arrivato l'annuncio, c'è l'accordo in sede europea per quanto riguarda il Recovery Fund, un accordo che coinvolge anche il bilancio dell'Unione Europea, e per quanto riguarda invece i fondi anticrisi 750 miliardi di euro nel complesso, di cui 390 miliardi di sussidi a fondo perduto, che era la richiesta principale del nostro paese. Iniziamo da qua. Arriva alle 5:30 del mattino l'annuncio dell'accordo sul Recovery Fund dopo 4 giorni e 4 notti di intensi e aspri negoziati. Vede la luce quindi il piano straordinario da 750 miliardi per salvare i paesi più colpiti dal Covid, dal tracollo finanziario, un passo storico per l'Unione e un successo per l'Italia, a cui andranno 209 miliardi. Il Premier Conte: non avrei mai concesso a nessun paese il diritto di veto. Alla fine è stato lasciato intatto l'ammontare totale, ma è stato ridistribuito. I sussidi sono scesi da 500 a 390 miliardi, i prestiti sono invece aumentati da 250 a 360 miliardi di euro. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel: we did it. Europe is strong. Europe is united. Ci siamo riusciti, ha detto. L'Europa è solida ed è unita. È la prima volta che finanziamo insieme le nostre economie. Qualcuno fa notare che per mettere d'accordo i 27 sono stati sacrificati i fondi destinati ai programmi europei, compresi quelli per la ricerca, la salute, il clima, come il Just Transition Fund, ma nessuno più ascolta. Per il momento è l'ora di festeggiare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'accordo sul Recovery Fund è la decisione più importante presa in Europa dopo quella sull'euro, lo ha detto il commissario Paolo Gentiloni, soddisfazione anche da parte del segretario Dem Zingaretti, di Renzi, di Italia Viva e Luigi Di Maio, che dice l'Europa è cambiata. Per Salvini invece si tratta di una fregatura. Sentiamo. Non si sono fatte attendere le reazioni di ministri, viceministri ed esponenti politici italiani. Soddisfatta la maggioranza, che adesso chiede velocità nelle proposte per l'accesso ai fondi, mentre l'opposizione con Forza Italia chiede che il programma di riforme venga realizzato in Parlamento e non affidato a una nuova task force competente. La verità è che l'approvazione di questo piano rafforza l'azione di governo, dice il Premier Conte, ricevuto al ritorno al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella. Tra i primi a commentare Matteo Renzi, segretario di Italia Viva, si congratula con Conte. Si dice contento per il colpo inflitto ai sovranisti. Un governo europeista fa bene all'Italia. Adesso spendiamo bene questi soldi, lavoro, non sussidi. Poi arriva subito l'avvertimento del presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, alla criminalità organizzata. Terremo le mafie lontane da questi fondi. Secondo il ministro degli esteri Luigi Di Maio, l'Europa ha dimostrato di essere cambiata. Una vittoria per il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Ora servono visione, concretezza e velocità. Tutti i ministri soddisfatti sui social, come il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che sottolinea: l'Italia ha un'opportunità unica di rilancio per un'economia più sostenibile, digitale e inclusiva. Dall'opposizione cauta la reazione di Meloni. Conte si è battuto, dice, ma doveva andare meglio. Netto Salvini, che invita Conte ci convochi quanto prima, parlando del centrodestra e di una fregatura grossa come una casa. Ma soddisfatti anche i sindacati, con Furlan che invita a non sprecare l'occasione. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sono oltre 14 milioni i casi di contagio nel mondo da coronavirus, secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University. In Europa preoccupa in questo momento soprattutto l'aumento dei casi in Spagna. Per quanto riguarda l'Italia, 9 regioni con 0 casi registrati ieri, ma preoccupano le zone della Movida. In Lazio si pensa di introdurre l'uso obbligatorio della mascherina. Sentiamo. Sono oltre 14 milioni 700 mila i casi di contagio nel mondo, 610 mila le persone decedute a causa del Covid. Solo negli Stati Uniti, che restano il paese più colpito, i morti sono quasi 141 mila su 4 milioni di contagi. Grave la situazione in Brasile, oltre 2 milioni di casi e ancora in aumento per oltre 80 mila decessi. Ma l'OMS mette in guardia anche l'Africa dopo l'aumento di contagi in Sudafrica. In Europa preoccupa invece la situazione in Spagna, che nell'ultima settimana ha registrato 5.600 nuovi casi. A Barcellona le autorità raccomandano di non uscire di casa tranne per emergenze. In Italia sono 9 le regioni a 0 contagio, la diffusione del virus è in calo con 190 nuovi positivi e 13 decessi. La Lombardia resta la regione più colpita con 8 persone morte e 56 contagiati. Allerta per i focolai scoppiati a Savona, Cosenza e Jesolo, con il ministro della Salute Speranza che parla di rischio di nuove chiusure anche a causa dei continui assembramenti. E a Capri, per questo è stato reinserito l'obbligo delle mascherine, e per lo stesso motivo uno stabilimento balneare di Fregene e una sala giochi di Fiumicino sono stati chiusi. Proprio dal Lazio arrivano ulteriori segnali preoccupanti. Dal nuovo bollettino sono 17 nuovi casi di Covid, 10 dei quali di importazione. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca ora: perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici della Regione Lombardia per l'inchiesta con al centro la presunta compravendita a prezzo gonfiato tra il 2017 e il 2018 di un immobile per la Lombardia Film Commission. L'indagine nei giorni scorsi ha portato al fermo del prestanome Luca Sostegni e vede indagati anche 3 commercialisti ritenuti vicini alla Lega. E blitz della polizia contro la mafia nigeriana. 47 persone sono state fermate tra Sicilia e il resto d'Italia per vari reati: associazione mafiosa, tratta di esseri umani, droga e sfruttamento della prostituzione. Riciclaggio illecita, intermediazione finanziaria, tratta di giovani donne, cessione di stupefacenti, reati violenti o punitivi nei confronti di altri connazionali. Queste alcune delle accuse con le quali 47 persone sono state fermate questa mattina nel corso di una maxi operazione della Polizia di Stato di Teramo. L'associazione, denominata Supreme High Confraternity, era radicata in Nigeria ma diffusa in molti stati europei ed extraeuropei ed era equiparata per struttura e forza intimidatoria alle mafie tradizionali. L'operazione è partita dalla mobile di Teramo in collaborazione con quella di Ancona, per poi ampliarsi a livello nazionale per portare alla luce una rete attiva tra la Sicilia e il centro Italia. Le indagini hanno accertato che le persone fermate fanno parte di una cellula locale che ha una competenza geografica dalla zona costiera della provincia di Teramo fino ad Ancona. Questa cellula, così come l'associazione mafiosa di cui costituisce una costola, si caratterizza per la segretezza del vincolo associativo, la ritualità dell'affiliazione, l'adozione di linguaggio e simbologia rigorosi, la violenza delle azioni. L'ingresso nell'associazione è subordinato a un rito di affiliazione e prevede l'obbligo alla partecipazione al finanziamento della confraternita. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Teramo. E un'altra vasta operazione tra Italia e Svizzera ha portato invece all'arresto di 75 persone accusate di essere legate alle cosche di 'Ndrangheta dedite al traffico di droga. C'è anche un ex assessore regionale calabrese tra i fermati nel corso dell'operazione Imponimento, che ha portato in manette 74 persone tra Italia e Svizzera. Si tratta di Francesco Antonio Stilitani, imprenditore nel settore del turismo, e 3 villaggi turistici che sarebbero stati controllati da persone vicine alla cosca di 'Ndrangheta, Anello Fruci del Vibonese, sono stati sequestrati insieme a società ed immobili per un valore complessivo di quasi 170 milioni di euro. Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri sottolinea l'importanza del radicamento delle cosche in Svizzera, dove finivano anche molte armi. Il respiro internazionale, la prova della forza di questa organizzazione criminale l'abbiamo con l'insediamento in modo sistematico e ormai da anni è consolidato questo insediamento in Svizzera. La Guardia di Finanza e la Polizia Giudiziaria federale e elvetica hanno indagato per 4 anni, utilizzando anche le informazioni di 29 collaboratori di giustizia, coinvolto anche un militare della Guardia di Finanza che avrebbe rivelato segreti d'ufficio. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. Ancora una notizia di cronaca: Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito in un centro specialistico di neuroriabilitazione, lo comunica la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera universitaria senese. Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri, la stabilità delle condizioni cliniche generali hanno consentito il trasferimento del campione. Proseguono i collaudi del nuovo ponte di Genova in vista della inaugurazione che avverrà ai primi di agosto. Invece è stata, ed è una buona notizia, ripristinata la doppia corsia sulla A14. Mentre le code sulle autostrade liguri sono diminuite solo di poco, un miglioramento più evidente potrebbe arrivare dal 31 luglio sulla dorsale adriatica, fondamentale per camionisti e vacanzieri. Su tutti e 13 viadotti sequestrati l'anno scorso dalla Procura di Avellino per problemi di manutenzione strutturale e alle barriere, si dovrebbe tornare a circolare con due corsie per carreggiata, sia pure ristrette. Venerdì scorso il GIP di Avellino ha dato l'ok e 7 viadotti, tutti nelle province di Fermo e Ascoli, sono già in questa configurazione. Tra il 29 e il 31 luglio si allestiranno le due corsie anche sugli altri. Dopodiché arriveranno le ispezioni dell'ingegnere Placido Migliorino, che per il Ministero delle Infrastrutture verificherà se ovunque le corsie hanno la larghezza minima da lui richiesta, 3,30 m. Solo in casi limitati potranno essere autorizzati 3,20 m. Se i requisiti non verranno rispettati, scatteranno nuove chiusure. Resterà comunque un lungo cambio di carreggiata fra Atri Prineto e Pescara Nord, a causa di frane che minacciano il viadotto Cerrano e la contigua galleria Solagne. Maurizio Caprino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo in chiusura allo sport. Il calcio: per la Serie A la Juventus a un passo dallo scudetto dopo la vittoria ieri sera in casa contro la Lazio per 2-1. Mattatore della serata, Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, sentiamo la Sky Sport. Sabíamos que era un partido muy difícil contra un equipo que está haciendo un campeonato muy muy bueno, pero sabíamos que teníamos una gran oportunidad de ganar, jugábamos en casa, y en mi opinión jugamos bien, podríamos marcar más goles, pero estamos muy contentos, es una ventaja buena. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Siamo al break, torniamo tra poco, ripartiremo dall'accordo di Bruxelles sul Recovery Fund, cercheremo di vivisezionarlo insieme ad Alberto Rioli e come sempre cercare di capire chi vince e chi perde. E un accordo che in questo momento vede anche l'opposizione, governo Conte cauta nei commenti critici, un accordo sulla carta molto positivo. 349 238 6666 per i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Effetto Giorno. In Europa c'è l'accordo per i fondi anticrisi, piano da 750 miliardi, giornata storica, dice Macron. Conte, l'Italia ora è più forte, soddisfazione anche per Zingaretti, Di Maio l'Europa è cambiata, ma per Salvini i tempi sono lunghi e c'è il rischio fregatura. Blitz contro l'Andrangheta, 75 arresti tra Italia e Svizzera. A Capri, boom di turisti per evitare rischi da assembramenti, il sindaco propone mascherina obbligatoria anche in piazza. Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti. Siamo all'alba del quarto giorno di un vertice lunghissimo, un Consiglio europeo, forse abbiamo stabilito i record, anche abbiamo superato per durata il vertice di Nizza. Siamo soddisfatti, abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso, adeguato a queste necessità che stiamo vivendo, che ci consentirà di affrontare questa crisi con forza, con efficacia. E allora torna a trovarci Alberto Rioli. Ciao Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, raccordo storico, si sprecano le definizioni questa mattina, ci arriviamo. Macron parla appunto di una giornata storica, Conte dice che l'Italia è più forte, queste erano le primissime parole all'alba di questa mattina a commento di questa quarta giornata di lavori. Veniamo però, Alberto, cercare proprio di capire, no? I termini di questo accordo. Allora, è un accordo che riguarda questi aiuti in forma di sussidi a fondo perduto e anche di prestiti, 750 miliardi la cifra macro. C'è anche la questione del bilancio dell'Europa, 1.074 miliardi, un'altra cifra che è stata fatta, perché si sono giocati anche gli sconti di cui parlavamo ieri, sempre con te in diretta in attesa di questa decisione, gli sconti che spettano per meccanismi passati ad alcuni paesi, Olanda compresa. E poi ci sono anche le questioni su come controllare questi flussi di denaro e come potranno essere spesi. L'Olanda chiedeva di controllare con diritto di veto, ma questa cosa poi non è passata. Allora, i termini di questo accordo, Alberto. Allora, abbiamo detto 750 miliardi, che non è poco, è una montagna di denaro che si dispiega sui 27 paesi dell'Unione Europea, 390 sussidi, quindi a fondo perduto, 360 prestiti a tassi naturalmente super agevolati, perché il rating a questo punto della prima forma di emissione di debito comune dell'Unione Europea sarà tra i migliori del mondo, quindi avrà dei tassi di interesse molto bassi, molto più bassi di quelli del mercato. Per noi è un bottino consistente, 209 miliardi, 82 sono sussidi e 127 sono prestiti. La formulazione lì è stata modificata nel corso dei negoziati, noi volevamo più sussidi naturalmente, però comunque potremmo fare conto su una ingente mole di denaro. I frugali cosiddetti hanno guadagnato aumentando la loro quota negegli sconti che venivano redistribuiti nel bilancio pluriennale europeo. Tanto per dirne una, che so, 100 milioni alla Danimarca in più di sconti, 400 milioni in più all'Olanda, 200 e passa milioni all'Austria. Ecco, questo è il bottino dei frugali, per così dire, perché poi si sono concentrati su quello. Dall'altra parte la questione della condizionalità di questi aiuti, perché non sarà una passeggiata di salute naturalmente, ci sarà un occhio molto attento dell'Unione Europea, che in questa sperimentazione di finanziamento vorrà esercitare tutta la sua moral suasion e non solo, quindi c'è un esplicito riferimento ad alcuni margini di condizionalità, non ultimo e forse il più esplicito e il più importante è quello che si vuole vincolare i prossimi investimenti alla svolta green. Che ecco. Sembra una cosa generica, ma in realtà significa che devi fare un piano articolato sul medio periodo sui progetti di conversione del paradigma tecnologico italiano verso la sostenibilità ambientale. Non è una cosa facile. Ecco, su questa cosa voglio tornare tra un attimo. Prima però sentiamo un altro passaggio di Conte. È un momento storico per l'Europa, è un momento storico per l'Italia. La nostra richiesta, la convinzione che abbiamo nutrito in questi mesi, la visione, la determinazione con cui abbiamo perseguito questo obiettivo sono state premiate. Il piano di rilancio che abbiamo approvato è davvero molto consistente. 750 miliardi, dei quali una buona parte andranno all'Italia, il 28%. Parliamo di 209 miliardi destinati all'Italia. Allora, quante volte abbiamo sentito usare questo aggettivo storico, no, per definire così questi accordi, questi passaggi, anche in particolare in Europa, ma insomma la politica è piena di svolte storiche, poi storiche alla storia non passano, però in questo caso anche Macron ha usato questa espressione, sembra, diciamo, come dire, adesso vi cito una dichiarazione dell'opposizione, Salvini dice ci sono tempi lunghi e in fondo al tunnel c'è il rischio comunque di una fregatura, perché non si sa bene come potranno essere spesi questi soldi. Al di là di queste valutazioni, diciamo così, a caldo dell'accordo, il fatto che ci sia questa emissione di titoli di Stato europei per finanziare questo trasferimento di risorse, no, dal nord al sud Europa, è un cambio, hai detto anche tu ieri, davvero forse storico, no? O no? Ma guarda, sì, per quanto l'aggettivo sia abusato, certe volte la storia ti offre dei tornanti che sono la cronaca, ma poi diventano storia. Devo dire, siamo testimoni di un passaggio che verrà ricordato un po' come quello di Maastricht, quando furono fissati i paletti delle compatibilità macroeconomiche su deficit e debito, perché è la prima forma di emissione di denaro comune, quindi di una condivisione del debito, quindi un superamento di tutti i pregiudizi dell'ala, che so, calvinista verso l'ala mediterranea e viceversa, insomma. Quindi c'è un primo tentativo davvero di creare un'idea di Unione Europea che sia un passo ulteriore rispetto a quella di immaginare il mercato unico, per quanto ad altissimo potenziale, ma solo un fatto mercantilistico europeo. Questa è una cosa che sta cominciando a creare i presupposti di una vera cittadinanza europea, di una vera condivisione di un obiettivo strategico continentale, che peraltro, lasciami dire, vediamo nelle piccole cose. Oramai la consuetudine che i leader dei 27 hanno acquisito è quella che il Consiglio europeo è stato una specie di grande consiglio dei ministri, con le sportellate, le polemiche, le risse, le battute, le cose, ma c'è una consuetudine tra leader e tra politici di vari paesi a convergere su un obiettivo comune, per quanto controverso e anche dialettico. E poi c'è una prima percezione delle opinioni pubbliche europee rispetto al tema. Di Rutte e delle sue rigidità stiamo parlando al bar, in tutta Italia. Voglio dire, quando le rigidità le aveva Gary Zalm, che era il mitico ministro delle finanze olandese, che era la spina di Ciampi, non lo si sapeva nei circoli, nell'inner circle delle questioni di politica monetaria, ma insomma nei bar non se ne parlava, eppure era lo stesso problema. Allora, la vera questione a questo punto, diciamo, archiviata la storicità, poi ne parleranno forse i libri di storia se davvero di questo si tratta, è poi il tema di come potranno essere poi effettivamente spesi questi soldi, perché il meccanismo europeo non prevede, cioè il meccanismo approvato in sede europea a Bruxelles non prevede diritti di veto da parte di nessuno, ma una maggioranza qualificata, sì, degli Stati, poi deve dire la sua anche la Commissione, le istituzioni europee. Sentiamo un altro passaggio di Conte quando dice, a proposito dell'Olanda, sentiamo. Non avrei mai consentito e non avrei mai concesso a nessun paese il diritto di veto o di intromissione su quella che è l'attuazione di questo piano di rilancio nazionale. Ecco, quindi nessun veto, Conte non ha voluto il veto non ci sarà, però ci saranno questi meccanismi. Alberto, come poi effettivamente, in quali capitoli di spesa, dove potranno essere investiti questi soldi? Cosa potrà farci l'Italia con questi soldi? Per esempio, abbassare le tasse? No. Sì. Investirli nella trasformazione energetica? Sì. Abbassare le tasse e usare questi denari per la spesa corrente, che so, per pagare gli stipendi della pubblica amministrazione? No. No. Devono essere collegati a un piano ambiziosissimo di investimenti. Investimenti vuol dire in grandi opere, siano esse infrastrutturali, materiali, ma anche immateriali. Per esempio un programma di implementazione del pacchetto istruzione dell'Italia, un miglioramento della performance educativa. Infrastrutture, grandi opere, quello sì, ma già abbiamo programmi che sono abbondantemente finanziati, lì il problema non sono i soldi. Sicuramente la convergenza verso il cambio della sostenibilità e della svolta verde, quello sarà pervasivo, riguarderà tutti i settori dell'economia, il potenziamento dei sistemi di economia circolare, dove peraltro abbiamo qualcosa da dire, perché non è che siamo arretratissimi, anzi potremmo fare molto di più e molto meglio, essere ancora più competitivi. Questi sono i settori e sono, ripeto ancora una volta, le condizionalità non sono esasperate, ma ci sono, saranno delle continui sistemi di verifica. Dovremmo convergere tutti su una capacità di pianificazione direi quasi tedesca, ecco, dobbiamo imparare quello soprattutto. Ecco, con questo, diciamo, questo me lo segno e vediamo se saremo in grado. Alberto Rioli, grazie per essere stato con noi. Chiudiamo questa pagina e torniamo invece alla cronaca, perché vi abbiamo già raccontato dell'operazione 75 arresti tra Italia e Svizzera contro l'Andrangheta, al centro sempre lo spaccio della droga. Adesso Daniele Biacchessi torna su questa questione, perché sembra che le mafie si stiano riorganizzando per trovare nuovi flussi di denaro per assistere le famiglie dei detenuti. Gli affari di Cosa Nostra tornano al punto iniziale, il controllo del mercato della droga. L'operazione della rossa dei carabinieri di questa notte ci dice che i vertici della mafia hanno bisogno di liquidità per gestire un numero sempre maggiore di boss incarcerati in varie parti della Sicilia e del paese. Per disporre di contanti, la famiglia mafiosa di via Calatafimi ha nei fatti riorganizzato la rete capillare di spaccio al dettaglio a Palermo, così anche i pugni diventano piccoli padrini che gestiscono attraverso la vendita di droga il territorio. E questa è un'importante novità. La domanda esponenziale di eroina e cocaina da parte di fasce sempre più estese e variegate di persone produce un'offerta altrettanto smisurata, che determina accordi tra boss ma anche dissidi profondi che possono giungere a guerre mafiose, come già avvenuto negli anni 70 e 80. Questa operazione dimostra invece dei convergenti accordi per l'approvvigionamento della droga da altre famiglie e per la ripartizione delle zone. E va bene, adesso torniamo a parlare della situazione per quanto riguarda il coronavirus in Italia, perché nonostante avete sentito nella prima parte di Effetto Giorno, già ieri 9 regioni, 0 contagi, la curva va molto bene, i dati sono positivi, per qualcuno non si può più parlare di emergenza, effettivamente dal punto di vista clinico è così, però c'è sempre la questione del rischio che la curva possa rialzarsi, soprattutto se cambiamo le abitudini che fin qua ci hanno, diciamo, aiutato a contenere il contagio. Una delle questioni riguarda le zone della movida, la sera soprattutto, perché si vedono situazioni dove non si usa la mascherina pur restando molto ravvicinati. Allora c'è una dichiarazione poco fa del sindaco, del presidente della Regione Lazio, segretario del Partito Democratico Zingaretti, che invita i sindaci a stare attenti, perché il Lazio sta valutando se inserire l'obbligo della mascherina nelle zone della movida. È quello che in qualche modo accade già a Capri. È con noi il sindaco Marino Lembo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, dove proprio in queste stesse ore, dopo aver assistito a qualche serata, diciamo così, di assembramenti un po' troppo sospetti in piazzetta a Capri, insomma, ci sono tanti turisti, già questa è una buona notizia, no, sindaco? Ah, certamente, diciamo che fortunatamente c'è stata un po' una ripresa di afflusso, diciamo, di turisti, di questi siamo contentissimi. È una cosa veramente, diciamo, importante, però ciò non significa che dobbiamo abbassare la guardia, perché noi in questi mesi abbiamo fatto un grandissimo lavoro con i capresi, per cui noi siamo riusciti praticamente a tenere l'isola protetta, non ci sono stati focolai. Ora il problema qual è? Noi abbiamo invitato con le forze dell'ordine tutte le attività commerciali, bar, ristoranti della piazzetta, bar, pub, ad avere il, diciamo, locale notturno, ad avere il massimo della concentrazione per far attuare la sicurezza, quindi distanziamenti seduti, diciamo, sui tavolini, eccetera, eccetera. Quello che risulta normale è che in realtà ci troviamo di fronte a tantissima gente che affluisce sull'isola, che mentre ad esempio bar, ristoranti, eccetera, applicano, diciamo, le distanziamenti, le misure di sicurezza, poi a un metro ci troviamo di fronte a assembramenti di persone che in realtà, diciamo, logicamente stanno in vacanza, rilassati uno vicino all'altro, eccetera. Insomma, poi gli spazi dell'isola non sono ampi, l'isola è bella proprio per questo, perché sono tutti spazi di un certo tipo. Ma quindi qual è la decisione che ha assunto, sindaco? La decisione è che in realtà, diciamo, partendo, le voglio dire solo una battuta, partendo dal presupposto che io sono convinto che chi viene a Capri ama l'isola, allora un piccolo sacrificio per, diciamo, contribuire alla sicurezza dell'isola è quella che il venerdì, sabato e domenica, dalle 6 del pomeriggio, quando iniziano gli aperitivi, fino alle 4 del mattino, in tutte le zone centrali che sono state delimitate e sono state individuate nell'ordinanza, c'è l'obbligo della mascherina. Ecco, insomma, vedremo. Sindaco, io la ringrazio, il sindaco di Capri, Marino Lembo, vedremo, sperimenteranno a Capri anche questa, la mascherina venerdì, sabato e domenica, obbligatoria all'aperto in un'isola piccola con spazi stretti dove ci sono tanti turisti, dalle 18, dalle 6 di sera fino alle 4 del mattino. 349-238-6666 per i vostri messaggi, per commentare le notizie di oggi. Ci siamo anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, torniamo tra pochissimo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. In Europa c'è l'accordo per i fondi anticrisi, un piano da 750 miliardi, giornata storica, dice Macron, Conte, l'Italia ora è più forte. Coronavirus, quasi 15 milioni di casi al mondo, preoccupa la risalita in Spagna, in Italia 0 nuovi positivi in 9 regioni. Blitz contro le cosche di 'Ndrangheta, 75 arresti tra Italia e Svizzera. Scuola al via il bando per l'acquisto di 3 milioni di banchi, fa discutere quello a rotelle che costa 6 volte più dei normali banchi in legno, ne parliamo tra poco. E allora, le 13:36 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta e, come avete sentito dal sommario, parliamo della ripresa della scuola a settembre e soprattutto dell'ultima notizia che riguarda il bando per l'acquisto di 3 milioni di banchi, di nuovi banchi monoposto. È con noi il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ieri è stato annunciato, Giannelli, questo bando da 3 milioni di banchi monoposto. Il punto di partenza era che molte scuole avevano da subito detto che in tante scuole c'erano banchi da due posti che non erano compatibili col distanziamento sociale. Da qua l'iniziativa di affidare al commissario straordinario Arcuri questo acquisto. La novità, diciamo, la notizia in qualche modo forse, è che questo bando prevede 1,5 milioni di banchi tradizionali e 1,5 milioni di banchi che sono stati definiti di tipo innovativo. In pratica sono delle seggiole a rotelle con una tavoletta che si ripiega come nelle sale conferenze e che fanno da banco, che però hanno suscitato alcune critiche. Ora, sul fatto della loro utilità, sul fatto che insomma, non costino 6 volte tanto rispetto al banco tradizionale, alcuni suoi colleghi hanno detto che si potevano investire questi soldi in modo diverso. Critiche anche, per esempio, la Meloni ha detto sono buoni per fare l'autoscontro. Ora, senza arrivare all'autoscontro, Giannelli, le chiedo però effettivamente, intanto, se questi banchi li avete chiesti voi, questi banchi innovativi, o se è un'idea dell'Azzolina. Allora, guardi, i banchi innovativi sono già utilizzati da numerose scuole sul territorio nazionale perché servono appunto a realizzare quelle configurazioni mobili all'interno. Quando dico mobili significa che si devono poter spostare, configurare in modo diverso a seconda del tipo di lavoro da fare in classe. Quindi sono quei banchi che sono molto utili per i lavori di gruppo, in cui noi mettiamo i ragazzi a piccoli gruppetti e fanno dei lavori. E questo tipo di attività non si sposa molto bene invece con la tradizionale organizzazione dei banchi fermi al loro posto, tutti messi di fronte alla cattedra. Quindi, diciamo, dal punto di vista dell'utilizzo e dell'utilità c'è sicuramente. Non entro nel merito del prezzo, sicuramente 6 volte di più è un bel prezzo caro. Però, insomma, ripeto, sono dei banchi già utilizzati, collaudati. Sì, no, è chiaro. Sulla base di quello che mi dicono i colleghi, funzionano bene. La domanda che io le ho fatto, se li avete chiesti voi o se in qualche modo è un'idea del ministro, è per capire se effettivamente questa idea di utilizzare così tanti banchi, metà dei nuovi banchi, con questa modalità, diciamo, corrisponde a una richiesta dei presidi oppure se è un'idea del ministro, perché sinceramente io per esempio non ho capito bene a che cosa potrebbero servire se non a questa mobilità, detto che anche il banco tradizionale si può alzare e spostare, perché diciamo la cosa fondamentale di questi banchi a rotelle è che sono più piccolini, no? Quindi diciamo sono salva spazio, ma io però avevo capito che c'era bisogno di recuperare come dire, spazio nelle aule dal punto di vista della rarefazione degli studenti, non mettere più studenti nella stessa classe perché ci sono banchi più piccoli, quindi ci possono stare più banchi. Io ho capito che servisse il contrario, quindi non capisco a cosa possono servire. Ma questi possono servire appunto a risparmiare spazio. Il punto è che bisogna comunque rispettare il metro di distanza quando stanno fermi, cioè uno deve ipotizzare una configurazione standard di banchi, diciamo, contrapposti frontalmente alla cattedra, quindi secondo la configurazione che tutti noi conosciamo, e quando sono in quella configurazione la distanza deve essere 1 metro. Quindi però che il banco sia piccolo, che il banco sia grande, che abbia le rotelle, diciamo, o non abbia le rotelle, non cambia nulla, la distanza è quella. Quindi ai fini dell'emergenza però, Covid in senso stretto, qual è l'utilità di questi banchi? Io forse se insisto nella domanda. Al futuro però, io lo dico io. Allora, si pensa sicuramente al futuro. Questi sono quei banchi che vengono utilizzati in tutte le scuole che stanno praticando, che hanno praticato forme di innovazione didattica, ed è fuori discussione che si debbano utilizzare banchi di questo tipo. Quindi serve a dotare le scuole di banchi. Quindi è più, scusi, avanzati, una, tra virgolette, è una previsione. Sì, scusi, è una previsione più per il futuro che non, diciamo, per la stretta, come dire, emergenza legata al Covid di settembre, perché Mi sembra di capire da quello che lei sta dicendo. Allora, sono tutte e due le cose, perché da un lato occupano meno spazio, sono più agevolmente trasportabili e si muovono più facilmente. Dall'altro, ovviamente, è un investimento per il futuro. Siccome noi stiamo andando in quella direzione come scuola, è chiaro che non ha senso comprare adesso 1,5 milioni di banchi per poi decidere tra uno, due, tre anni, magari di su cambiare. Singola iniziativa delle scuole, che servono banchi più moderni. Quindi da questo punto di vista la vedo positivamente. Le riferisco però, Giannelli, alcune critiche che sono state, ho letto qua e là, insomma, per esempio andando consultando un sito che è Tecniche della Scuola, c'è un bel articolo approfondito con dei confronti tra il banco tradizionale e questo tipo di banco, che però non va bene per una serie di attività. Per esempio non va bene, siccome la tavoletta che diventa, diciamo, il piano d'appoggio per il lavoro è più piccola di un banco tradizionale, quindi non va bene per fare confronti tra due libri, non va bene, leggo, per usare l'Atlante o per consultare carte topografiche, non parliamo del giornale o anche i fogli, diciamo, grandi, quelli per fare il disegno, non va bene per tutte queste attività. Che sono però attività, come giustamente ricordava lei, che comportano un utilizzo estensivo di carta e di altri supporti cartacei. Se invece pensiamo alla scuola, diciamo, del futuro, in cui si utilizzano tablet, notebook, e guardi che ce ne sono sempre di più nelle scuole e ne sono stati acquistati tantissimi con questi finanziamenti, questi banchi sono invece più utili. Quindi bisogna vedere qual è l'utilizzo che pensiamo di fare. Se è un utilizzo più avanzato, sono più indicati, non c'è dubbio. Va bene, staremo a vedere, Giannelli. Intanto, così, diciamo, segnaliamo questa notizia, la ringrazio per essere stato con noi. Segnaliamo le critiche, le perplessità che abbiamo raccolto qua e là. E sul costo, per esempio, no? 300 euro anziché 50 rispetto a un banco normale. Vedremo se saranno soldi ben investiti. Io però personalmente, per chiudere questo argomento, forse sono io che non ho capito, ma anche dopo l'intervista con Giannelli non ho ricavato una ragione legata strettamente all'emergenza Covid per acquistare questi banchi, che costano 6 volte più del normale, perché se si tratta di spostare più facilmente, insomma, anche i banchini in legno si sollevano abbastanza facilmente per trasportarli. Non vedo la necessità di fare questo acquisto per quanto riguarda la questione fondamentale, che è come riaprire la scuola a settembre, dato che dobbiamo tenere i ragazzi distanziati. Abbiamo il problema delle classi pollaio. Questi banchi, a mio avviso, non aiutano a niente, assolutamente. Però può darsi che mi sbagli io, anzi sicuramente mi sbaglio io. Carlo Genta. Ciao Alessio, buongiorno a tutti. Allora, tu, abbiamo già detto, sì, i figli ce li hai grandi, non hai più problemi, nessuno va più nemmeno a scuola? No, sì, un paio vanno ancora a scuola. Sì, ma sono grandi, e comunque per quanto riguarda noi la prima della classe è sempre la solita. Sì, si è confermata ieri sera. Da nove anni la prima della classe è sempre la solita, adesso dopo aver battuto la Lazio. Quanto manca per la matematica? Per la matematica, compiti in classe è piuttosto semplice. Se l'Inter dovesse perdere con la Fiorentina, la Juventus vince la prossima partita, sarebbe già campione d'Italia. Morale, ne mancano 4 punti per non guardare neanche in faccia agli altri. Però si tratta solo di giochini matematici. Il senso è quello di una Juventus che si avvicina al 9° scudetto consecutivo, e fa abbastanza impressione, perché se tu ci pensi, uno che aveva 9 anni e quindi faceva le elementari quando ha vinto Conte quella volta là, adesso è maggiorenne, quindi è tanta roba. E stasera poi si rigioca anche, no? Stasera si rigioca, torna l'Atalanta, che abbiamo sempre una gran voglia di vedere, e ospita il Bologna. Torna anche un'altra squadra terribilmente in forma come il Milan, che ne affronta un'altra tra le migliori in questo post-Covid, che è il Sassuolo, e poi ci sarà Milan-Atalanta. Insomma, questa è una specie di triangolare in 2 giornate tra le 3 squadre migliori del momento. Bene, tutti i temi per il pomeriggio sportivo di Radio 24. Grazie Carlo, ti ritroviamo dopo le 14. Noi invece torniamo tra un attimo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.